su va, giorni su giorni, alla fine dei giorni. Perché così kebab puoi farci sempre poco, ti bruci sempre scontato quando giochi col fuoco. Vorrei che certi sogni tornassero qua giù, ma penso che fosse per me non sei nemmeno più tu. Oh, e se ripreso a fasi fatte, dette dimenticate, voi non vi immaginate tristezza palate. Ma è stato meglio prendere tutto e scappare d'estate, tanto le cose belle resta sempre irrealizzate. C'è chi pensa a costruire, a creare, c'è chi dentro se stesso un eterno bimbo e vuole sognare. È sempre vero, tutto bene, non può sempre andare, alla fine è andata così, l'importante era tentare. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. Chi ha intrudenità del sentimento, a ricorda sa risa scacca l'entrego d'aposento. Disin pizze disi, fuori bestiri, aggiù mai ci dia stavata, a mi vai a dimagriri. Pochini biri, pochini sciri, pochini mi conosce, donna di mi bira riri. Pochini sciri che donna di chi be sente vegheri biri, tenga giù fa endi o grisendi mille giri. Quando sta maggio sparessi, pigara mali, casti ai salusi da mangiano con che mari. Ognuno abbraccia sballendisi a faccia vari, in moi sa ricorda canta aguda da brari. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. È meglio soli che farsi male l'un l'altro. Sincero con me stesso ti ho perso e mo penso ad altro. Sono state notti passate pensando in bianco, mo vivo col ricordo e lo dico senza rimpianto. Okay. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me. E avrei un migliaio di cose da raccontarti, vorrei stare tranquillo ore e ore solo per guardarti. Se questa luce si è spenta perché, spero che tu stia alla grande anche senza di me.